Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 11 aprile 2015. Arrivano gli imballaggi nanoporosi. Frutta fresca più a lungo grazie all'effetto microgroviera. Si chiamano nanopori e sono una delle frontiere più interessanti degli imballaggi attivi, cioè in grado di attivarsi per proteggere gli alimenti. Ora gli imballaggi nanoporosi stanno iniziando a diffondersi nel settore alimentare, che sta puntando sulle innovazioni del packaging con forti investimenti. L'imballo nanoporoso, che pure non confligge con le rigorose norme europee in materia di nanomateriali, è uno dei più interessanti esempi di protezione attiva del cibo. I nanopori intrappolano infatti le sostanze potenzialmente nocive e le espellono, riuscendo ad evitare, per esempio, l'affrettarsi del processo di maturazione della frutta. Fin qui la notizia dell'11 aprile 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente. In questo 2012 l'utilizzo di materiali nanoporosi nel settore del packaging è una delle soluzioni di cui si parlerà il 9 maggio nel corso del convegno organizzato dall'Associazione Scienza e Tecnologia delle Macromolecole. Maurizio Galimberti, docente al Politecnico di Milano e organizzatore del convegno. Generalmente uno dice: beh, io so che questa sostanza attiva la mischio un po' insieme al materiale che fa da imballo, e però prima non è facile mischiarlo, secondo la legge spesso non te lo consente. È difficile, ecco, è un obiettivo difficile. Per quello una linea che si sta sviluppando è quella di usare degli imballaggi nanoporosi. In quel caso lì il nano è vuoto, cioè il materiale che fa da imballo è quello di sempre, però tu sei stato capace di trasformare in un nanogruviero, ok? Quindi quei nanopori si preoccupano loro di andare a prenderti le sostanze nocive e poi le pompano fuori verso l'ambiente. Nocive non in assoluto, basti pensare, non so, all'etilene, alla CO2, che sono le cose che fanno maturare la frutta, e che sono, cioè, una mela che noi abbiamo in cucina emette tanto etilene, noi non ce ne accorgiamo nemmeno, però l'etilene è l'ormone che fa maturare la frutta. Infatti da sempre si dice: se c'è della frutta in casa acerba, mettila di fianco una mela e lei maturerà. E quindi questi imballaggi si preoccupano di questo, di prendere l'etilene e di portarlo via dalla frutta, e così la frutta rimane più fresca per lungo tempo. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.